Salve a tutti gli ascoltatori di Radio Big World. Parleremo di nuovo dell'opportunità di mescolare acqua e vino. Oggi i nostri ingredienti da mescolare sono il sapere, nel senso di conoscere, e la fede. Mescolare sapere e fede è certamente un buon metodo di vita, perché si placano gli animi davanti ai grandi interrogativi a cui non sappiamo rispondere, ad esempio perché siamo vivi, perché si muore, e nel contempo, attraverso il sapere, abbiamo risposte sufficienti per capire le regole che gestiscono il mondo in cui viviamo, regole importanti che ci hanno permesso cose quasi inimmaginabili, ad esempio arrivare sulla Luna, che ci permettono, seguendo una dieta opportuna, di mantenersi in salute, che qualora la salute tenda a entrare in crisi, attraverso le medicine ci permettono di ritrovare la salute persa. Quindi mescolare il sapere e mescolare la fede, che ci dà delle grandi risposte, secondo me crea una qualità di vita accettabile per le persone che siamo noi che viviamo su questa terra. Il sapere e la fede però scaturiscono da fonti diverse, e questo bisogna capirlo bene. Il sapere deriva dall'ascolto, dalla ricerca di pensieri, dalla sperimentazione, dalla fatica di fare prove, ragionare, confrontarsi. La fede invece, che deriva da un'altra sorgente, è la capacità di accettare come utili per la nostra vita eventi o pensieri che non si sanno spiegare, ma in cui si ha fiducia perché si attribuiscono a qualcun altro a cui noi necessariamente abbiamo dato la nostra fiducia. Io desidero fare qualche riflessione sui saperi. Saperi, per esempio, comprendono da sempre l'utilizzo, la riflessione su quelle che sono le cosiddette favole, cioè racconti dove dentro ci sta creatività fantasiosa, non aderente alla realtà, e anche servono come indicatore di un comportamento di vita. Pensiamo per esempio a Pinocchio, no? Collodi, all'inizio del suo libro, adopera queste parole: c'era una volta un re, diranno i miei piccoli lettori. No, c'era una volta un pezzo di legno. E comincia una storia. Pensare che invece del solito re, della solita Cenerentola, del solito principe azzurro, si parte con un pezzo di legno, ci scombussola il modo di vedere. Poi si trova che Pinocchio si mette a discutere con il grillo parlante. Quando mai qualcuno di noi ha parlato con un grillo? E insomma, gli lancia pure contro un martello al povero grillo, e il grillo gli dava dei consigli molto molto importanti che Pinocchio capirà in seguito. Poi ci si ricorda tutti di Pinocchio, del gatto e della volpe, che convinsero Pinocchio a sotterrare le monete d'oro e d'argento che aveva ricevuto, perché poteva essere un modo per farle crescere, far diventare un albero quel seme che lui aveva messo, un albero con tante tantissime monete. Questa ingenuità non è poi così stupida, perché noi non sotterriamo le monete, ma siamo circondati da tanta ingenuità che, quando è avvenuto poi il disguido, ci meravigliamo di non esserci accorti che quel suggerimento del gatto e della volpe che avevano fatto a Pinocchio era tutt'altro che vero, ma soltanto interessato. Poi, per esempio, di Pinocchio si può ricordare il paese dei balocchi, dove tutti i bambini e adulti si vorrebbe andare, perché lì non c'è da lavorare, non c'è da studiare, c'è solo da divertirsi. Ma il paese dei balocchi a Pinocchio poi insegnò molto, no? Vi ricordate dove entra un ciupino, eccetera, eccetera, eccetera. Poi la storia di Pinocchio c'ha un evento bello. Pinocchio incontra la fata dai capelli turchini. Per noi le fate sono bionde, sono more. La fata dei capelli turchini di Pinocchio, che è un'entità, qualcuno, qualcosa che si prende cura di questo burattino, perché sa che crescendo, nel senso di maturando, Pinocchio potrà diventare qualcosa di diverso da quel pupazzetto di legno che è ora. Infatti, alla fine della storia, Pinocchio diventa un bambino come tutti gli altri, che, partendo da un pezzo di legno, vivendo i racconti che abbiamo appena accennato, sviluppa la sua conoscenza della realtà in cui vive e si evolve fino a diventare una persona, essendo inizialmente solo una cosa. Ora, e questa è quindi la favola, ci insegna sia il comportamento e ci diverte mentre qualcuno ce la racconta o ce la legge. Poi c'è un altro aspetto del sapere, che è l'aspetto più puramente scientifico. Vi faccio un esempio che più o meno tutti conosciamo, ma ci serve per capire questa che è la scienza. Vi ricordate il teorema di Pitagora sul triangolo rettangolo? Il teorema dice che il quadrato costruito sull'ipotenusa, che è il lato più lungo del triangolo rettangolo, corrisponde alla superficie dei quadrati costruiti sui cateti. Allora, a noi in questo momento cosa ci interessa? Quasi niente. Però è un mezzo che ha sviluppato la nostra capacità di ragionare e di confrontarsi con le cose. Ad esempio, col passare del tempo, questo teorema di Pitagora ha perso di lucentezza, perché oggi che conosciamo il comportamento del cosmo, degli astri, il teorema di Pitagora è relegato solo al piano, a una geometria che guarda il piano, perché il teorema di Pitagora nell'universo non è più valido, perché l'universo non è un piano, ma è un ente curvo, in quanto ci sono le masse che curvano il tempo e quindi l'universo. Non addentriamoci di più, però ricordiamoci che anche le scienze esatte, come la geometria, sono molto utili per la nostra conoscenza. Andiamo ora a parlare un attimo della fede. Per quanto riguarda la fede, ci riferiamo a un libro che tutti conosciamo come degno di fede, cioè la Bibbia. La Bibbia ha una storia lunga, appartiene prima al popolo ebraico, poi al popolo cristiano, appartiene al mondo di oggi. Nella Bibbia c'è il racconto della creazione. Io desidero portare l'attenzione su quella parte lì, che è l'inizio della Bibbia. Dice: Dio all'inizio creò il cielo e la terra. Quindi ci risponde come mai c'è questo universo e quindi come mai ci siamo noi, anche perché Dio creò il cielo e la terra. Bisogna credere che Dio creò il cielo e la terra. Bisogna credere che il primo giorno Dio creò la luce, il secondo giorno Dio creò il firmamento e le acque, poi creò la terra ferma, la terra asciutta, poi creò gli astri, il sesto giorno creò gli animali e l'uomo e il settimo giorno si riposò. L'immagine è assolutamente antropica, nel senso che si lavora e poi ci si riposa. Questo racconto ci permette di scaricarsi di tanti pensieri che ci potrebbero pure otturare la mente, perché chi l'ha creato il mondo? Quando? Come è avvenuto? Il Big Bang, eccetera, eccetera. Invece la fede, cioè credere che quello che ci racconta la Bibbia è la realtà dei fatti, ci rende la vita molto più tranquilla, anche se non scordiamoci che nel 1500 Galileo, fondatore della scienza, ebbe ad essere in contrasto con la Bibbia, perché mentre lui diceva che la Terra girava intorno al Sole, la Bibbia, con l'episodio di Giosuè, ve lo racconto in due momenti, Giosuè, un condottiere israelita, combatteva la sua guerra e l'esercito suo stava vincendo, ma stavano per arrivare le tenebre. Allora Giosuè si rivolse al sole dicendogli: fermati, o sole. Il sole si fermò, Giosuè vinse la sua battaglia e la Bibbia continua i racconti. Ma c'era un contrasto tra Galileo, che diceva che era la terra che girava intorno al sole, e Giosuè, che diceva che il sole girava intorno alla terra, tant'è che si era fermato. Gli costò caro, ma sono le piccole incongruenze che ci sono nella vita di tutti i giorni. Io vorrei portare l'attenzione su qualcosa che mi colpisce e mi ha spinto a riflettere sulla fede e sulla scienza e sul sapere. Oggi la fede è l'elemento dominante nella civiltà, perché la fede non richiede nessuna fatica di pensiero analitico e dà certezze di vita. A mio parere, comunque, la fede non è l'atteggiamento sociale che serve maggiormente allo sviluppo della civiltà in evoluzione, e quindi può appoggiare l'evoluzione della società, ma in dei momenti contrasta in maniera forte l'evoluzione sociale, che sempre, a mio parere, è l'unico scopo della nostra vita. Inoltre, la fede oggi è il meccanismo usato da chi ha il potere, dai politici e dal commercio. Basta convincere un cittadino della preminenza del potere della politica e del commercio. Come si fa a convincerlo? Si utilizzano le tecniche di marketing, eccetera. Una volta convinto questo cittadino, quindi carpita la sua fede, quella persona crederà a tutto quello che viene dalla fonte che ha carpito la sua fede. La ponte, se l'ha detto, era il potere, la politica e il commercio. Quindi oggi il potere, la politica e il commercio, attraverso la fede, condizionano enormemente la vita dei cittadini. Avverrà allora che crederemo veri i tanti messaggi che veri non sono. Acquisteremo ciò che ci presentano i suddetti, anche se non ci serve, e saremo persone oggetto e non persone libere di scegliere e di pensare. Perciò, mentre lo dico a me, lo dico anche a te, poni molta attenzione a chi vuole la tua fede contrabbandando i suoi interessi come interessi tuoi. Perciò pensaci bene prima di fare quella croce sulla scheda elettorale o di spendere soldi per avere ciò che non ti serve. Ti saluto e buona giornata. Alla prossima, se vorrai.